Bichita. Special un punto d'incontro fra già dormo e buongiorno dovrei trovarlo fra ascolti di parlo stimoli non sempre sono gli altri a non aver notarmi son periodo voglio essere alterno tutti incrociati ancora come un bg in un pezzo soul. Tranquillo come un beat day della soul. E più la mia metrica il mio sound la mia storia il mio flow il mio mondo special ste detto in un secondo quando butto una bottiglia e non fa rumore di vetro non fa è l'informazione che ti dà la possibilità di fare scelte su chi sei chi vorresti essere se tu non ti conoscessi così non lo saresti così, né ti vorresti in altri modi,